in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati, spero, alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa settimana cominciamo da Vox Europe, perché comunque, lo sappiamo, la nostra rassegna si è trasformata un po' da solo europea a internazionale, però noi siamo europei, in questo momento sappiamo che la questione europea è importantissima e quindi parto, come facevamo appunto quando eravamo solo europei, da Vox Europe, quel sito che vi cito spesso, dove trovate un monitoraggio degli articoli che riguardano le questioni europee. Questa settimana Olivier Demour, che è un giornalista francese appassionato di storia dell'Europa, ha scritto un pezzo che si chiama Pechino, il partner indispensabile. È molto interessante perché la Cina, lo sapete, è lì testa a testa a seconda delle statistiche come prima economia del mondo, è sicuramente dal punto di vista industriale a tutti gli effetti la prima economia del mondo, ha economicamente, se non altro, colonizzato già il continente africano. Sono difficili i suoi attuali rapporti commerciali con gli Stati Uniti e quindi, secondo questo articolo, è importante che l'Europa colga questa opportunità di stringere dei rapporti migliori con la Cina. E qui sì, questo lungo articolo, molto bello, tradotto in italiano, racconta l'evoluzione dei rapporti commerciali tra la Cina e l'Europa e spiega anche dove potrebbero andare, e perché ci sono delle tensioni perché la Cina è accusata di fare il cosiddetto dumping, che viene dalla parola inglese to dump, che vuol dire buttare, cioè sommergere un mercato di merce a prezzo più basso di quello che riescono ad attribuire altri paesi produttori, in modo appunto da sbaragliare la concorrenza e poi eventualmente rialzare i prezzi. Questo è successo per l'acciaio, è successo per le calzature, è successo per l'abbigliamento. Secondo però questo articolo, la Cina è una preziosa alleata. La situazione economica degli Stati europei spinge l'Unione Europea a reagire con molta prudenza alle distorsioni della concorrenza che può generare gli scambi commerciali con la Cina, ciò che ha fatto evitando di ridiscutere il nuovo statuto della Cina all'interno dell'OMC. E qui appunto vi invito davvero a riflettere su questa questione, perché è chiaro che si dovrà trovare un compromesso. È vero che la Cina può, se vuole, fare dumping su praticamente qualsiasi tipo di prodotto, è giusto mettere dei dazi antidumping, ma è anche giusto cercare di trovare un accordo con la Cina, anche perché, ricordiamolo sempre, oltre a essere un grande esportatore, comincia a essere un grandissimo mercato, quindi per chi esporta lì è importante mantenere dei rapporti commerciali equilibrati. Passiamo alla Süddeutsche Zeitung. È scomparso da pochi giorni Helmut Kohl. Helmut Kohl è stato l'artefice, oltre a essere un po' il padre politico dell'attuale cancelliera Angela Merkel, anche lui esponente dello stesso partito, la CDU, i Cristiano Democratici, è stato il fautore della riunificazione della Germania. E forse lo ricorderete tutti, nel novembre del 1989 cadde il famoso muro di Berlino, iniziò il percorso di riunificazione, un percorso davvero che è stato per la Germania dell'Ovest un percorso molto difficile, perché ha dovuto di fatto finanziare l'integrazione. Kohl l'aveva detto chiaro, non aveva mai mentito su questo, però la riunificazione, per quanto idealisticamente fosse un obiettivo che tutti dicevano di volere, poi è stata molto faticosa e quindi gli è anche un po' costata un posto nella storia che secondo me prima o poi tutti gli attribuiranno. Poi ci sono anche stati degli scandali politici che hanno coinvolto dei finanziamenti illeciti al suo partito, qui in Italia niente confronto a quello che abbiamo visto in Italia, però comunque lui si ritirò. La Süddeutsche Zeitung ripercorre un po', tutta come tutti i giornali tedeschi naturalmente, ripercorre il percorso politico e umano di Helmut Kohl e poi annuncia che probabilmente grande cerimonia commemorativa si terrà il 1 luglio nella sede di Strasburgo del Parlamento Europeo. Interverranno naturalmente la cancelliera Angela Merkel, Emmanuel Macron, l'ex presidente il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, che ha preso il posto, sapete, di Martin Schulz, che si è candidato contro la Merkel. Insomma, sarà sicuramente un evento da seguire. A proposito di scandali di finanziamenti dei partiti, naturalmente i giornali francesi si sono scatenati sullo scandalo, insomma, hanno giustamente dato molti fatti di cronaca e alcuni anche interpretazioni e opinioni sul fatto che il partito Modem, che è alleato di Macron, avrebbe usato soldi dell'Europa come finanziamento d'emergenza, cioè sulla carta i finanziamenti erano per i parlamentari europei, poi in realtà sono stati usati per altri scopi. Naturalmente la differenza tra scandali come questi, ricordiamo il caso di alcuni parlamentari, una parlamentare in particolare di Forza Italia, della quale non ricordo il nome, che aveva assunto la madre come assistente, e poi, ma comunque sempre lì al suo posto, anzi la si vede anche ai convegni, voglio dire nessun effetto né di breve né di medio termine. Ecco, in Francia la differenza forse è questa, che questa inchiesta ha indotto tre ministri del governo del Modem che erano a governo, François Bayrou alla giustizia, Sylvie Goulard alla difesa e Marielle de Sarnez, a rinunciare alla loro carica solo perché appunto ci sono queste accuse. Bene, Financial Times invece si occupa di politica italiana, o si occupa di tante cose, si è occupato di tante cose nella scorsa settimana, ma anche di politica italiana, dedicando un articolo a Silvio Berlusconi, che sappiamo è tornato dopo alcuni mesi, molti mesi, un po' di assenza dalla scena politica, anche per problemi di salute, è tornato a ricoprire un ruolo importante, perché addirittura vorrebbe rilanciare, no? Avete sentito, addirittura partendo dal simbolo e dal nome del partito, ci potrebbe essere questo albero della libertà. Scrive Financial Times: Berlusconi aspetta dietro le quinte la chance di tornare al centro della scena. Un po' il senso di tra i due litiganti il terzo gode. I due litiganti sarebbero Matteo Renzi, segretario del PD, e Beppe Grillo, cofondatore del Movimento 5 Stelle, e Berlusconi appunto potrebbe essere il terzo che si infila lì in mezzo e approfitta della situazione. Cambiamo media, perché questo era il Financial Times, quindi un quotidiano. Bloomberg Business Week, che è il settimanale economico per eccellenza degli Stati Uniti, però ha anche un'edizione europea, è quella che ho davanti agli occhi, e la copertina è dedicata a Tim Cook, che è il CEO di Apple, è stato di fatto il successore di Steve Jobs, con il quale aveva lavorato per tantissimi anni. Rilascia una lunga intervista al settimanale, il cui titolo è America's More Important Than Bloody Politics. L'America è più importante della maledetta politica. Bloody è appunto, lo traduciamo, maledetta. Ricorderete forse anche un titolo di un film che è Every Bloody Sunday, quindi ogni maledetta domenica, riferito al fatto che di domenica si gioca a football, così come in Italia e in Europa si gioca a calcio, o meglio si gioca anche a tanti altri sport, ma questo è il più popolare. E naturalmente viene da blood, perché ha un senso figurato, si può anche usare in senso letterale. Comunque quello che Tim Cook vuole dire è che, nonostante, e qui dovrebbe forse fare un po' di mea culpa che non fa, nonostante giganti come la Apple e altri della Silicon Valley si fossero schierati, soprattutto durante la campagna elettorale di Donald Trump, contro il partito repubblicano impersonificato dal candidato Donald Trump, quindi un po' di politica l'avevano fatta anche loro, e adesso però dice dovrebbero essere altre le priorità, e contesta alcuni proclami di politica economica, se così possiamo definirla, appunto dell'attuale inquilino della Casa Bianca. Time invece dedica la copertina a Uber. Sapete che Uber sembrava destinato a passare alla storia come il servizio che aveva rivoluzionato tutto il trasporto pubblico, in particolare con l'impatto sui taxi. Ora sapete che il CEO si è dimesso, prima aveva detto che prendeva un periodo sabbatico, poi si è proprio dimesso, ci sono molti problemi soprattutto legali, tanto che il Time mette in copertina uno smartphone, che è quello che molte persone usano per utilizzare i servizi di Uber, e il titolo è Uber Fail, cioè un super, perché Uber letteralmente, poi, o meglio letteralmente in tedesco vuol dire sopra, ma è molto comune negli Stati Uniti usarlo come proprio per indicare qualcosa che è molto grande, quindi in questo caso fail, un fallimento, un super fallimento, quindi è un gioco di parole, perché Uber sappiamo appunto anche il nome del servizio, della società e della relativa app. Ancora due segnalazioni, una dalla Zeit. Dico là perché mi viene di tradurre dal tedesco, Zeit vuol dire tempo in tedesco ed è femminile. Comunque è un settimanale che esce ogni domenica e questo lungo articolo, come in tradizione di questo settimanale, che ha il formato di un quotidiano ma ha proprio il respiro di un settimanale, quindi molte inchieste, l'articolo di Mark Brost, che trovate tradotto su Internazionale, si intitola «La Germania esporta troppo, Trump sbaglia a criticare il surplus commerciale tedesco, ma è vero che Berlino deve investire meno all'estero e più in Germania». Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.